Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Il programma che, come sapete, ha scoperto una sua piccola missione. Rivelare domenica dopo domenica tutte le volte in cui ci facciamo affascinare, ammaliare dal mito del multitasking. Sapete che mi capita sempre più spesso di vedere, soprattutto in TV ma anche nella comunicazione online, che molti brand dichiaratamente rivolti ormai alle donne, automobili ma non solo, puntano sul multitasking come se fosse la chiave di tutto, no? Puoi fare questo, puoi fare quest'altro, puoi fare quest'altro tutto il giorno. Ecco, sono un po' indietro, cioè sono rimasti al tempo in cui davvero tutte noi credevamo di poter fare tutto bene, e poi stroncate ci accasciavamo sul letto senza nemmeno essere capaci di dire buonanotte a chi dorme con noi, se c'è qualcuno che dorme con noi. Ecco, il mito del multitasking resiste nella pubblicità e noi ce ne occuperemo presto, ma non questa domenica, perché questa domenica Nessuna è perfetta, programma dichiaratamente rivolto ai temi delle donne che lavorano e a tutte le problematiche connesse alla questione lavoro, questa domenica vuole prendere la questione donne e lavoro da un punto di vista davvero diverso. Fare la moglie è un lavoro? Certo che sì, e non solo per tutto l'aspetto legato alla vita domestica. Si comincia al mattino alle 7 preparando la colazione ai figli, poi c'è il pranzo, la cena, tenere in ordine la casa, occuparsi di tutto, dalle bollette alle cravatte del marito, e poi i bambini da portare in piscina. Certo che è un lavoro, lo sappiamo tutti, non lo scopriamo certo noi qui. A Nessuna è perfetta, ma c'è anche un aspetto particolare del lavoro di moglie, quello che capita di vedere, negli Stati Uniti la definiscono la corporate wife, nella moglie che si dedica professionalmente alla carriera del marito e lo aiuta a fare carriera. Ci sono moltissimi casi, ne conosciamo tutti, spesso sono persone appunto che rimangono nell'ombra ma che hanno un ruolo importantissimo nel successo del professionale dei loro mariti, ed è di questo che vogliamo parlare questa domenica, e sono proprio curiosa di sapere che cosa ne pensa il nostro agente provocatore. Gianpaolo Panza, autore del saggio che è con grande successo in libreria, Vecchi, Folli e Ribelli, il piacere della vita nella terza età, e Gianpaolo Panza, agente provocatore di questa nostra puntata, perché lui lo riconosce sempre, è molto importante il ruolo che Adele Grisendi, la donna che gli è accanto da tanti anni, ha avuto e sta avendo sempre anche nella sua vita di scrittore. Sbaglio, è così? Come no, non soltanto senza Adele io sarei già morto, penso sempre, non ce l'avrei fatta da solo. Poi Adele è stata decisiva per i miei libri, ha scritto anche i suoi libri, e che cosa posso dire di più? Poi lei non vuole mai che si parli di lei, questa ancora adesso mi faceva segno, ascoltavo la risposta che stavo dando a te, lei faceva taglia, come dire, non parlare troppo di me. Beh, invece ne parliamo noi, perché è importantissimo per uno scrittore, ma credo in molti altri settori, avere una compagna che ferocemente magari critica, ma molto solidarizza con tutto quello che è la problematica della pagina bianca. In che modo, secondo te, Giampaolo Pansa, la figura del lavoro della moglie che è accanto a uno scrittore è significativa e determinante? Prima di tutto lo scrittore viene picchiato dalla moglie o dalla compagna. La seconda cosa, viene tagliato. Quando io ho scritto questo libro ero convinto di aver fatto un lavoro importante nei limiti dei libri scritti dai giornalisti, e avevo deciso di scriverlo quando ho compiuto 80 anni, un anno fa. Perché è un punto di vista molto diverso. La prima cosa mi ha mandato al tappeto dicendo: c'è troppo sesso in questo libro. E io ho detto: beh, ma il sesso è importante. Anche il piacere della vita nella terza età. Non soltanto per i giovani, certo, o per le signore o i signori, diciamo, maturi, ma è importante anche per i signori e le signore anziane. Poi naturalmente io ho fatto la prima stesura del libro, Adele l'ha tagliata e massacrata di tutte le parti che poi mi sono reso conto non andavano bene, ho fatto una seconda stesura e poi è uscito questo libro che, ecco, in questo avevo visto bene io, che poteva avere un successo, non voglio dire di mercato perché è una parola brutta. Però siete in classifica. Nelle autogrill. Ecco, ma vecchi folli e ribelli. Vecchi folli. Troppi libri sui giovani. Ecco. E mi sono stufato di ascoltare queste prediche sugli anziani che devono garantire il futuro ai giovani, ma i giovani se lo devono creare da solo. Quando io mi sono laureato in scienze politiche a Torino, avevo 23 anni, 110 la lode e la dignità di stampa, ho vinto il premio del vecchio Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, e mi sono arrangiato da solo. Il verbo che io ho più sentito durante la mia adolescenza e la mia primissima gioventù è stata Giampa, ossia Giampaolo, arrangiati. E noi non lo diciamo mai ai nostri figli. Senti, Giampaolo, mi piace del titolo, che lo ripeto è Vecchi, folli e ribelli, il piacere della vita nella terza età, il riferimento alla ribellione, perché i vecchi si ribellano ma i giovani, i nostri giovani no. Ma i giovani non hanno più la forza, perché non sono capaci. Oddio, non vorrei mai vedere delle schiere di giovani che percorrono le strade delle città e dei paesi incazzati neri e quindi ribelli, perché ho visto, sono abbastanza anziano per aver visto prima la seconda guerra mondiale, poi la guerra civile, poi gli strascichi, i delitti e rapine del primissimo dopoguerra, quello tra il 45 e il 48. Poi l'Italia si è un po' calmata grazie a De Gasperi, che ha vinto la battaglia delle elezioni del 18 aprile. Sì, un vero pacificatore. Quindi, sì. I giovani, tranne alcune minoranze, di solito molto politicizzate, Giampaolo, si dice, ma preferisco molto di più i giovani che emigrano. Devo dirti che se vedo un ragazzo con la laurea in geologia che apre una pizzeria a Londra, vorrei dargli il premio Nobel dell'ardimento. Senti, nell'ultima domanda che vorrei farti, sempre sul tema che è quello della nostra trasmissione, cioè il ruolo delle donne in Italia. Tu vedi che anche le donne italiane non si ribellano? Perché sono anni che parliamo del fatto che il maschio italiano è quello che dà meno aiuti in casa in tutta Europa, sono anni che parliamo del fatto che non ci sono asili o scuole del pomeriggio e quindi le donne fanno mille cose. Perché le donne italiane accettano sempre, un po' passivamente? Ma non accettano mica tanto. Io ho un'idea molto diversa da te delle donne italiane, a cominciare da te naturalmente. Ma forse perché sono un vecchio signore, io sono convinto che le donne comandino. E se non riescono a ottenere tutto quello di cui hanno bisogno è perché non vogliono ottenerlo. Guarda, io ho visto tra mio padre e mia madre, quella che comandava era mia madre, per una ragione molto, anzi per due ragioni. La prima è perché aveva un carattere da comandante, la seconda perché era, mentre mio padre era un operaio specializzato delle poste, mia madre aveva un negozio di mode che era diventato molto importante nella nostra piccola città e guadagnava 3-4 volte di più. Quindi aveva il potere economico. Ma certo. Grazie a Giampaolo Panza e ricordo il bellissimo saggio che è in libreria, Vecchi, Folli e Ribelli, Il piacere della vita nella terza età. E un saluto ad Adele, che è stata un po', diciamo, il convitato di pietra di questa nostra trasmissione. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Nessuna è perfetta. Eccoci ritornati a Nessuno è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E la nostra Sunday Girl è esattamente il paradigma di tutto quello che abbiamo detto finora. La nostra Sunday Girl è Cinzia Sasso, giornalista, scrittrice e moglie dell'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Un ruolo, quello di moglie, che è anche il titolo del tuo ultimo libro, appunto Moglie, nelle librerie da fine settembre, con la prefazione di Natalia Aspesi, e un titolo Moglie che adesso ci devi spiegare. Tu sei stata giornalista tutta la vita, poi a un certo punto... hai deciso che l'essere gratificata dal tuo lavoro poteva bastare, poteva cominciare un'altra vita, che è quella della moglie per professione. Buongiorno a tutti, ciao Maria, grazie mille dell'invito, grazie mille di essere una Sunday Girl, non so se più per le girl o per le Sunday. Dai, tutte e due. Comunque mi piace moltissimo parlare di questo argomento, anche perché... quando ho cominciato a scrivere questo libro e poi ho deciso di intitolarlo Moglie, era una mia grandissima preoccupazione proprio quella di come venisse interpretato. Temevo che niente, che qualcuno potesse pensare, ma come, questa per tutta la vita ha lavorato e ha pensato che l'importante fosse l'autonomia, l'indipendenza, anche economica naturalmente, o forse soprattutto economica, e ha pensato che poteva cavarsela da sola, arrangiarsi, che non aveva bisogno di nessuno. Improvvisamente diventa una moglie e fa anche la moglie. Quindi, siccome è un passaggio che ha intrigato me, mi piace molto parlarle. Ecco, aiutaci a capire, perché la nostra generazione, anche quella delle nostre madri, ha insegnato alle nostre figlie che prima di tutto l'autonomia, l'indipendenza economica. Quindi questo messaggio deve essere chiaro, non è che tu stai dicendo alle ragazze basta, non pensate più al lavoro, sposatevi e fatevi mantenere. È una cosa diversa, ce la spieghi? Sì, innanzitutto nel libro... e spero che tutti i tuoi ascoltatori avranno la pazienza di leggerlo, questo è un concetto chiarissimo, e cioè che questa è la base di partenza, l'autonomia di tutte le persone e naturalmente anche delle donne. Io in realtà vedo molta differenza adesso fra donne e uomini, anzi tra i più giovani io vedo che la fidanzata di mio figlio e mio figlio hanno lo stesso approccio, i loro amici che conosco, maschi e femmine, hanno lo stesso approccio nei confronti della vita. Non è più come nella nostra generazione, in cui noi avevamo bisogno, non so se la parola giusta è dimostrare, comunque sì, dimostrare, di essere esatto. Autosufficienti, di bastare a noi stesse, perché insomma ci avevamo bisogno di farlo notare. Ecco. Sì. Adesso secondo me è molto meno. Io però per tornare, quindi nel libro questa è una storia che io racconto, spero molto bene, comunque attraverso le esperienze di molte persone. Quello che è capitato a me, se vuoi, è qualcosa di diverso, però nel senso che poi io ho sposato anche una persona che andava a fare un lavoro, tra virgolette, particolare, cioè aveva deciso di lasciare il suo lavoro di avvocato e di fare il sindaco. E cioè, di decidere di dare 5 anni della sua vita a servizio di una causa sociale, in questo caso a servizio della città. Voglio dire che se l'uomo che è diventato mio marito avesse continuato a fare l'avvocato, forse non saremmo qua a discutere di questa scelta. Quindi questo è sicuramente qualcosa che mi ha condizionata nel momento in cui l'ho fatto. Ecco, voglio chiederti questo. Negli ultimi anni, non è frequentissimo, però abbiamo assistito a mogli di politici che mettevano ben in chiaro: ah no, io voglio continuare a fare il mio lavoro. Un caso su tutti, Valérie Trierweiler, quando era ancora compagna di Hollande, imbastì un vero e proprio braccio di ferro con l'entourage presidenziale, perché rivendicava il suo diritto di continuare a fare la giornalista. Poi è andata come è andata, ma la stessa Hillary Clinton, da First Lady, cercò disperatamente di continuare ad avere un ruolo politico e non soltanto di moglie. Tu invece hai fatto una scelta totalmente diversa. Qualcuno dirà: beh, bella forza, è bellissimo fare la First Lady di Milano ogni sera alla Scala e ci sono un sacco di bei vantaggi. Però io ricordo che invece tu sei stata anche oggetto, no, di critiche, perché le mogli dei politici sono sempre sotto osservazione, vero? Sì, sì, essere la moglie è un ruolo scomodissimo. No, io credo che fosse molto più bello, se dobbiamo parlare di, non so, di soddisfazione personale, per me fare il mio lavoro. Il lavoro, il tuo e il mio è lo stesso, quindi lo conosciamo tutte e due, sappiamo con quanta passione l'abbiamo sempre fatto. Poi francamente io nel libro dico che io mi sono stupita che per tanti anni, ho lavorato 36 anni, e mi dessero uno stipendio per andare in prima fila a vedere cosa succedeva e poi raccontarlo agli altri. Trovo che sia un mestiere meraviglioso e, se vuoi, un privilegio quasi impagabile. Detto questo, non ho mai avuto un momento di... Io penso che la scelta che ho fatto, cioè di lasciare il lavoro, anche proprio perché era questo lavoro, fosse qualcosa di doveroso. Non di doveroso perché lo imponeva una legge, assolutamente no, però il senso dell'opportunità sì. Gli esempi che tu hai fatto, io naturalmente non condivido niente di quello che ha fatto la fidanzata dei tempi di Hollande, la Trierweiler, nel libro orribile che ha scritto dopo, perché non credo che si sciacquino in piazza i panni, sì, no? Di una relazione personale, privata, anche d'amore o quel che è, e neanche quella di continuare a lavorare. Perché a me succedeva questo, a parte le cose che fanno ridere, tipo che i colleghi con i quali io lavoravo fino al giorno prima, certo, ecco, che mi chiedevano, le colleghe soprattutto: ma tu sarai una First Lady modello Carla o Michelle? Che mi faceva rabbrividire. Ma però c'era anche questione di opportunità. A me capitava di intervistare delle persone che magari potevo incontrare a cena nella veste di moglie, di intervistarle come giornalista e di incontrarle quindi in situazioni non professionali, completamente diverse. Mi è capitato di fare un'intervista importante, mi ricordo ancora chi, guarda, era Formigoni, che era il presidente della regione ancora. E il giorno dopo ho fatto questa intervista, normalmente era un'intervista importante, ma insomma sì, assolutamente con la mia professionalità di sempre, e il giorno dopo di finire sulle pagine del giornale, in una paginata intera, dove veniva fatta l'esegesi della mia intervista, cioè cercando in retroscena. Allora, se lei ha chiesto questo, vuol dire che suo marito sta facendo, ecco. Non si poteva andare avanti, tu no, dici. Io penso, no, ti ripeto, non lo impedisce nessuna legge, non lo impediva nessuno. Io penso che fosse una cosa di buon gusto, di eleganza, di evitare dei conflitti di interessi. Quindi è stata, secondo me, una scelta doverosa, non dovuta, ma doverosa. Ecco, tu hai incontrato molte First Lady nei 5 anni in cui sei stata tu stessa First Lady a Milano. La più celebre di tutte è certamente Michelle Obama. Chi è che ti ha lasciato, come dire, un ricordo, un commento, un aneddoto comune a tutte queste donne che hanno fatto questa scelta? Maria, mi consenti di tornare però indietro e di finirti la risposta, sì, di prima? Dopo ti racconto di Michelle, che era naturalmente la più bella, anche perché mi ha fatto sentire un microbo. È talmente grande, talmente tanta, sì, talmente alta, talmente con delle spalle da nuotatore, cioè che io mi sentivo, che non è che sono piccola, sono normale, ma mi sentivo nessuno. Però volevo concludere un ragionamento. Prima abbiamo detto che la scelta è stata quasi doverosa. La cosa invece, secondo me, sulla quale c'è da riflettere, almeno quella che ha fatto riflettere me, è che io sono stata molto felice e ho scoperto molte cose quando ho fatto quella scelta. Io per tutta la vita avevo ragionato con l'io. C'ero io, c'era mio figlio, c'era il mio lavoro, c'era la mia automobile, la mia casa e il mio fidanzato. Io in questa occasione, quando sono diventata una moglie, non solo per lo stato civile, ma credo proprio un passaggio molto più profondo, sì. Io ho scoperto il noi. E siccome mio marito stava facendo una cosa importante, io ho vissuto questa esperienza, non è stato faticoso, ho vissuto che per me era la cosa più bella, la soddisfazione più grande, poter fare qualcosa che fosse utile a lui. Ti faccio un esempio assolutamente banale. Quando lui tornava a casa, che racconto nel libro che fa molto ridere tutti, quando lui tornava a casa molto stanco la sera, tornava sempre molto tardi, io sentivo con gioia girare la chiave nella toppa e correvo in cucina a preparargli un aperitivo. Cosa che non avevi mai potuto fare magari prima, perché finivi tardi tu al giornale. Certo, se io avessi continuato a lavorare, al di là dell'opportunità di cui abbiamo parlato prima, probabilmente io non sarei potuta stare a casa io ad aspettarlo. Io invece avevo molta gioia di stare a casa ad aspettarlo, perché pensavo che questo potesse essere utile a lui. Allora questo mi ha fatto riflettere su tante cose, e cioè forse anche sul fatto che riflettiamo sul rivedere come abbiamo impostato anche i rapporti tra le persone. Allora io penso che due persone che stanno insieme, si vogliono bene, ma che fanno ognuno una propria strada indipendente, cercando ognuna il proprio successo personale, sia molto più difficile, sia molto invece più facile fare una strada comune. E questa è proprio la chiave di tutto. Sono convinta che quello che tu stai dicendo sta facendo riflettere tante persone che ci ascoltano, ed è effettivamente una rivelazione. Noi siamo un po' la mid generation, no? Abbiamo vissuto molto concentrati ciascuno, uomini e donne, sui nostri bisogni, i nostri successi, sul proprio successo, sulla propria soddisfazione, sulla propria felicità. Ma tutte queste parole possono avere anche un senso diverso, cioè può essere felicità far felice un altro. Questo è il punto. Senti, nel chiuderci, salutarci, appunto un ricordo di Michelle Obama, che adesso è la First Lady molto amata, che però sta per lasciare la Casa Bianca. Beh, c'eri anche tu, Maria, eri l'unica altra giornalista italiana che c'era su quella terrazza del padiglione americano il giorno in cui Michelle è venuta a visitare l'Expo. È stato un siparietto molto divertente, perché io ero stata invitata come giornalista e non come moglie del sindaco, di questo ero molto orgogliosa, e poi peraltro il sindaco non aveva potuto venire, però allora il cerimoniale della Casa Bianca mi avevano chiesto se portavo io i saluti della città, e così è successo. Ti ricorderai, tutti gli ospiti erano stati messi in fila indiana, perché Michelle, per questioni di sicurezza, li riceveva uno a uno dietro a un separé, non si mescolava a tutti gli ospiti. E quindi il primo a passare al saluto con Michelle era stato il prefetto, che portava i saluti del paese, e poi la seconda ero io che portavo i saluti della città. E naturalmente mi ero immaginata la scena ed è andata esattamente come me l'ero immaginata. Io sono passata, loro mi hanno presentato, hanno detto il mio nome e cognome, la dottoressa Cinzia Sasso, moglie del sindaco di Milano. E quindi non so chi di noi due sia scoppiata a ridere prima, fatto sta che siamo scoppiate a ridere tutte e due, perché io ho detto, ma veramente faccio anche la giornalista, ma da quando mio marito è diventato il sindaco sono sempre solo la moglie del sindaco. Naturalmente ha detto questo a Michelle Obama, che è un avvocato, che faceva l'avvocato, certo, di grande successo. Ed è diventata mom in chief invece, sì. Ecco, era stato veramente uno scambio molto divertente. Chissà se scriverà anche lei un libro, ma noi intanto andiamo a leggere con avidità Moglie di Cinzia Sasso, in libreria e per i tipi della casa editrice UTET. Noi intanto ringraziamo Cinzia Sasso, la nostra Sunday Girl di questa domenica. Grazie a voi, ciao. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci alla lettera della nostra ascoltatrice Giulia. Vi ricordo che potete scrivere a nessunaeperfetta@radio24.it, commentare su Twitter Twitter i consigli che questa domenica arrivano da due super esperte. Pensate, pensate, la scrittrice Sveva Casati Modignani, nella sua vita Bice Cairati, e Gabriella Magnoni Dompè, imprenditrice e filantropa. Ma prima di ascoltare i consigli che daranno a Giulia, vi racconto che cosa ci scrive. Ho 43 anni, sposata da 12 e con un figlio di 8. Ho avuto la fortuna di poter restare a casa e dedicare il mio tempo alla famiglia, a mio marito e al mio bambino. Non le dico quanta fatica costi alle volte. Sveglia presto, la colazione pronta per tutti, curare l'aspetto mio, di mio marito, del bambino, ma nonostante gli sforzi fatti, le rare volte in cui dico di essere anch'io un po' stanca, mio marito risponde: stanca di che? Ecco, questa cosa mi fa davvero arrabbiare. Non lo capisce che anche il mio è un lavoro? Allora, ci sono mogli che sono veramente impegnate in un lavoro faticosissimo e senza aiuti. Ci sono mogli più fortunate che il lavoro domestico lo delegano perché hanno aiuti. In ogni caso, la domanda stanca di che se la sentono rivolgere tutte spesso. C'è anche l'altro aspetto, però attenzione, la moglie che è curiosamente dietro le quinte l'artefice del successo del marito. Comunque è una professione, ed è la professione narrata tante volte da Sveva Casati Modignani. Buona domenica Bice Cairati. Buona domenica a tutte voi. Ed è una vita che ha sperimentato lei per prima, Gabriella Magnoni Dompè. Buona domenica Gabriella. Buona domenica Maria. Allora Bice, io la chiamo Sveva, va bene, per arrivare dritta a tutti coloro che la conoscono così. In un'intervista data di recente, Sveva Casati Modignani ha detto: mai appoggiarsi ai mariti, io l'ho fatto. Che capitombolo! Ma se avete scritto per anni romanzi a quattro mani. Sì, sì, ma per quanto riguarda l'andamento di una famiglia, proprio il macio di una volta proprio se ne batteva l'anima. Sì. Non so come dire, io porto a casa i soldi e tu, per tornare alla lettera della signora che ci scrive, e tu che cos'hai da fare? Allora, mettere insieme il pranzo con la cena, seguire un figlio, star dietro le cose del marito, della casa, andare a pagare le bollette della luce, del gas, del telefono, badare alla mamma, alla suocera che telefonano e hanno bisogno di aiuto, portare il piccolo in palestra, seguire il marito quando deve essere bello e pimpante perché lui la invita a cena. È un lavoro molto faticoso per il quale tutte le donne che sono a casa e si dedicano alla famiglia dovrebbero avere uno stipendio. Perché è un vero lavoro, è un vero lavoro. Ma è un lavoro, ed è anche un lavoro difficile, fatto a tempo pieno. Perché il marito torna a casa, il marito classico, adesso i giovani stanno un po' cambiando, ha lavorato, torna a casa e dice: ah, come sono stanco. E la moglie gentile gli porta le pantofole, gli offre l'aperitivo, gli sorride, la tavola è apparecchiata, lei ha già cucinato, tutti seduti. Dopodiché lui arranca verso il divano e la televisione e lei mette a posto, spignata, guarda nelle cartelle del bambino per vedere se i libri ci sono tutti, magari gli ripassa la lezione mentre lo accompagna a letto. Non ha il diritto di essere stanca, infatti. No, e non solo, ma sarebbe così bello se qualcuno le dicesse grazie, non glielo dice nessuno. Gabriella Dompè, quando eri una corporate wife, perché sei stata sposata per tanti anni a un grande imprenditore e sei stata quello che gli americani definiscono un corporate wife, cioè una moglie molto presente e utile nella carriera del marito, quante ore lavoravi davvero? Diciamo soltanto che in quella fase della mia vita quello era il mio lavoro, anche se a quei tempi purtroppo, Maria, il concetto di lavoro non era legato a quello di corporate wife, era un concetto di ruolo anziché quello di lavoro, come infatti sì, in verità è. E diciamo che sicuramente è stata una fase molto importante della mia vita nella quale io ho dovuto lasciare il mio lavoro di imprenditrice, quello che faccio attualmente, o comunque rallentarlo notevolmente, proprio perché gli impegni erano inconciliabili. Di conseguenza, se io dovevo essere all'estero, negli Stati Uniti con lui, non potevo essere magari a una riunione di lavoro importante, certo, per me. E quindi ritengo che quello che tu stai dicendo, che il ruolo di moglie a qualsiasi livello sia un ruolo di lavoro a pieno ritmo e senza neanche una possibilità di dirti quante ore, dipendeva dalla giornata. C'era la giornata in cui magari era una vacanza, c'era la giornata in cui si lavora 24 ore su 24. È un lavoro che non ha uno stop, è un lavoro continuo in certi momenti. E ti è capitato di non sentirti dire grazie, come diceva prima Sveva Casati Modignani? Dunque, io nel mio caso specifico sono una persona abbastanza fortunata, mi è stato detto grazie, però ti devo anche dire che quello che io ho fatto e quello a cui io ho rinunciato è senza dubbio stato uno sforzo al quale non sono seguiti poi dei risultati così alla pari, questo posso dirtelo. Cioè, quindi, sei un po' pentita di aver rinunciato alla tua carriera di imprenditrice per aver fatto la corporate wife? No, allora... No. Secondo me ci sono fasi diverse di vita. Io in quella fase credevo nel matrimonio, credevo nel fatto di costituirmi una famiglia, per cui per me quello era un fattore prioritario e conseguentemente noi dovevamo costituire una coppia e dovevamo andare avanti insieme. Io ero la sua forza, per cui io credevo nel mio ruolo di corporate wife. Quello che voglio dire è che la donna deve sempre fare delle rinunce, perché è soprattutto la donna che le fa. Io poi sono ritornata nel mio ambito originario, ho fatto l'imprenditrice, però sicuramente ho dedicato molto tempo. E molti anni, esatto. E molti anni della mia vita, tant'è che come tu ben vedi mi chiami Gabriella Magnoni Dompé, perché il mio cognome Dompé deriva proprio dal mio ruolo di corporate wife, è il mio elemento socialmente identificativo. Certo, perché sei stata conosciuta così per tanti anni. Certo, mi è stato riconosciuto sì, in sentenza di divorzio, Maria. Questo vuol dire tante cose, vuol dire che il mio è stato un lavoro a pieno regime, poi ho dovuto usare il mio doppio nome per non creare una dicotomia fra il mio nome nel lavoro e il mio di imprenditrice e il mio nome nel sociale. Ti certo, sembra poco? No, no, è un fatto sul quale infatti quindi, stiamo non riflettendo. Non pentita però. Sveva Casati Modignani, Meg Wolitzer, una scrittrice americana che a me piace moltissimo, ha raccontato in un suo libro la storia di una moglie che era una brava, giovanissima studentessa di una importante università americana che sposa il suo professore e per tutta la vita lo aiuta a scrivere i suoi libri. E il giorno in cui danno il Nobel a suo marito, i cui libri sono diventati famosi in tutto il mondo, ma nessuno sa che li ha scritti lei, ebbene, in quel giorno lei lo lascia. C'è questa vita, diciamo, dietro, no? di moglie nell'ombra, in tante storie che anche lei, Sveva Casati Modignani, ha raccontato, e anche nel libro La moglie magica c'è la storia di una moglie basta che a un certo punto invece decide di riprendersi la sua vita. Non è che decide, le va proprio fagiolo, le capita di riprendersela. Quello è un caso limite, perché lei ha sposato un violento. Tuttavia, molto spesso le donne, senza rendersene conto, diventano lo stuoino dei loro uomini. Come diceva prima Gabriella, ci sono donne che davvero sacrificano la propria carriera, il proprio lavoro, per costruire quella del marito. E quindi non so fino a che punto sia giusto da parte nostra negarsi la propria dignità, la propria libertà in funzione di un compagno, perché io penso che il rapporto dovrebbe proprio essere paritetico, io aiuto te ma tu aiuti me. Ecco, quello che un po' ci diceva Cinzia Sasso, che è stata prima ospite, che è autrice di un libro Moglie, in cui racconta come lei a un certo punto, dopo 36 anni di professione da giornalista, piena di passione, ha deciso di fare la moglie, ma perché era un modo di condividere davvero la scelta fatta dal marito di fare il sindaco di Milano. Se non c'è questa condivisione, mi sembra di capire, Sveva e Gabriella, allora la rinuncia forse rischia di essere controproducente. Capisco bene, siamo proprio alle ultime battute. Gabriella e poi Sveva Casati. Ma io penso che non deve essere una rinuncia determinata da una rinuncia in se stessa, ma in funzione di un amore. Infatti poi quando l'amore finisce, come nel mio caso, io ho ripreso in mano la mia vita e ho fatto quello per cui probabilmente ero nata per fare, cioè l'imprenditrice. A mio giudizio è proprio anche una questione di educazione. Cioè, beh, è anche una questione di fortuna, Gabriella. Magnoni Dompé, tu avevi un'impresa dalla quale ricominciare, non tutte possono ricominciare da un'impresa. No, effettivamente non è soltanto questo, Maria. Il problema è che ci vuole anche una, secondo me, e le donne, questo bisogna puntare su questo, una capacità di rimettersi in gioco con grande determinazione e anche spirito di disciplina, di organizzazione e di sacrificio, perché a qualsiasi livello molto spesso il fatto anche di essere la moglie di un qualcuno, chiunque esso sia, può essere una coperta di Linus dietro la quale nascondersi. Questo vale spesso e purtroppo a tutti i livelli. Questo è un punto sul quale vorrei sentire in chiusura Sveva Casati Modigliani. Può essere la coperta di Linus essere la moglie di, e spesso è comodo stare sotto quella coperta? Può essere una coperta, che sia comodo non lo so fino a che punto, perché credo che noi donne non amiamo brillare di luce riflessa e ci hanno appioppato il ruolo di donna sacrificale per il bene della famiglia. Io credo che una famiglia sana non abbia bisogno di ruoli sacrificati, abbia bisogno di un entusiasmo, di una fattibilità, di una progettualità che nasce da entrambi, dall'uomo e dalla donna. Credo che su questo possiamo davvero essere d'accordo tutti, anche perché sennò poi si alimentano delle infelicità di coppia e prima o poi si pagano. Io ringrazio Gabriella Magnoni Dompé e Sveva Casati Modignani, cioè Bice Cairati. Grazie per essere state con noi e a presto. Grazie Maria. Grazie. Grazie di cuore. Buona giornata. Grazie mille. Grazie. Buona domenica. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci l'ultima parte di Nessuna è perfetta, il momento del coach. Di solito il coach dà consigli di lavoro a persone che vivono in azienda, in ufficio. Ma chi l'ha detto che il lavoro della moglie non abbia bisogno di una coach? Infatti ce l'abbiamo, eccola, Maria Serena Ciambellotti, buona domenica. Buona domenica Maria. Come uscire dal tunnel in cui si è infilata Giulia? Lei si sente appunto un po' sotto pressione per la vita domestica, che ha comunque tante impegnative attività, e poi la sera quando il marito torna a casa e magari a lei capita di dire sono stanca, il marito le risponde ma stanca di che? Bella questa domanda anche che ci pone Giulia, anche perché è una situazione tipica che poi in realtà si riscontra anche tante volte nelle aziende, no? Quindi con il capo che magari è assente e che al rientro in ufficio non capisce come mai le persone siano oberate o appunto stressate. Quindi tornando a Giulia, intanto la lamentela prendiamo un attimo così confidenza, no, con questo stato che appartiene un po' a tutti noi ogni tanto, è uno stato proprio in cui buttiamo fuori un'energia piuttosto negativa, no, che è anche tanto contagiosa. Gli umori si spengono, no, quando ci si trova tra colleghi o tra amiche, tra mogli, a lamentarsi. È importante comprendere che nasce da un bisogno che non è espresso, quindi per uscire dal tunnel, per rispondere quindi a Giulia, Giulia si può porre questa domanda: di che cosa ho veramente bisogno nel momento in cui mi sto lamentando con mio marito? Cioè, che cosa mi servirebbe da lui? Sentirmi dare una sorta di pacca sulla spalla metaforica, no? Quindi sentirmi dire: no, ma dai, stai andando bene, stai facendo un sacco di cose, capisco il tuo stato. Oppure un concreto aiuto, esempio: sto per organizzare una cena per il suo team di lavoro e sarebbe utile che lui si occupasse almeno dell'aspetto di andare a acquistare, a scegliere il vino. E quindi innanzitutto chiedersi di che cosa ho bisogno, di che cosa sento il bisogno per stare meglio, e comunicare all'altro questo, perché l'altro non può avere la sfera di cristallo e leggere nella nostra mente di che cosa abbiamo bisogno, no? Cosa che è abbastanza tipico a volte delle donne, quindi ci aspettiamo che l'altro comprenda semplicemente leggendo lo sguardo, sì, o il pensiero, no? Quindi abituarsi a formulare chiaramente ciò di cui si ha bisogno in maniera pacata, sai, e poi dare un tempo determinato alla lamentela in modo tale che non contamini, che non contagi energeticamente il presente e soprattutto che non sia l'appuntamento serale per cui lui mette la chiave nella toppa, entra e c'è subito la statua della lamentazione, sagra della lamentela, sì, la festa della lamentela, dove quindi, no, regna questo tipo di energia. Si può anche decidere come un gioco: adesso 10 minuti ti dico tutto quello che non ha funzionato dalla giornata, poi giriamo pagina e parliamo d'altro, cioè in modo tale che sia anche, come dire, circoscritto come tempo questo momento di sfogo. Questo è il primo consiglio che dai a Giulia. C'è qualcos'altro prima di chiudere la nostra puntata dedicata alla moglie? Beh, anche immaginare il proprio ruolo di moglie come una scatola, no? Quindi il ruolo moglie, e cosa c'è lì dentro? Beh, intanto tutta una serie di attività, cose che io faccio settimanalmente, e dall'altra parte alle quali corrispondono caratteristiche di personalità, cioè chiedersi che cosa mi serve essere per poter fare tutto ciò, e quindi arrivare anche a concretamente, no, una mappatura, un'idea. Faccio l'esempio: faccio sempre in modo che ci sia pranzo e cena pronto, bene, quindi che caratteristiche devo avere ho per fare tutto questo? Ma sono sicuramente una persona organizzata, so pianificare, ho anche creatività perché so anche variare i menù. Ecco, e quindi dare al ruolo moglie, quindi questa scatola, un contenuto che sia anche visivamente molto concreto, in modo tale da poi poter dialogare, no, col proprio marito, col proprio partner, e specificatamente fare esempi su quanto in realtà in quella scatola ci sia, forse anche poco visibile a chi per diverse ore della giornata non è a casa. Grazie alla nostra coach Maria Serena Ciambellotti, a lei e a voi l'augurio di una domenica rilassata davvero e povera di momenti multitasking.